Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E allora siamo qui in diretta fino alle 19, ma è solo l'antipasto di una domenica piena di tantissime cose che deve ancora vivere il suo capitolo forse più importante. Dalle 21, Parigi-Saint-Denis, la finale tra Francia e Portogallo, che vivremo in diretta. Dalle 21, qui Radio 24 con lo speciale dedicato alla finale. Domenica però che ci ha già regalato tantissime emozioni, La Formula 1 con il suo caos, perché non sappiamo ancora quale sarà il podio definitivo del Gran Premio di Silverstone. Abbiamo appena visto a Wimbledon la vittoria di Andy Murray, abbiamo visto la bufera sul Tour de France con il nostro Fabio Aru, che purtroppo si è staccato, ha perso circa un minuto da Chris Froome sotto la pioggia e la grandine sulla salita che portava ad Andorra. Abbiamo le notizie di calciomercato, abbiamo tantissime cose. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Abbiamo anche una bella coda in autostrada, questo per non farci mancare niente in questa domenica. Notizie sul traffico, 3 ore fermi sulla A7 in prossimità di Binasco, incidente, 3 ore immobili. Insomma, speriamo entro le 21, quando... gradi 39 per la cronaca. Entro le 21, quando partiamo con il nostro specialone dedicato alla finale dell'Europeo. Cominciamo a raccontarla questa domenica? Cominciamo allora dalla Formula 1. Tutti pronti? Boato, curva 18, traguardo, 47esima vittoria in carriera per Lewis Hamilton. Quarto successo in Gran Bretagna, a casa sua, e ad attaccarsi a Rosberg nel campionato mondiale. Rosberg secondo, e con la penalità potrebbe anche Hamilton diventare leader di questo mondiale. Awesome stuff, Lewis. Great job, man. British Grand Prix. Great job this weekend, guys. Thank you so much for your continued efforts. Everyone back in the factory. Really amazing. Questo succedeva alle 15.30, più o meno. Sono passate 2 ore e mezza e non abbiamo ancora il podio del Gran Premio di Silverstone, perché Rosberg è sotto investigazione per questo scambio di messaggi col suo muretto a 3-4 giri dalla fine. Problema al cambio, Rosberg chiede aiuto e il muretto gli risponde. Giro molto lento per Rosberg, attenzione, sì, non ha il radio. Problema col cambio. Problemi nel cambio, e gli hanno detto di fare un cambiamento nel default. Ma sulla carta non è consentito. Infatti. E il nodo è qui, saluto anche Umberto Zappellone, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, anche a chi è in coda. Quanto dobbiamo aspettare per sapere qual è il podio del Gran Premio di Silverstone? Guarda, devo dirti che oggi la Formula 1 mi ha veramente stupato, perché prima quella partenza con 7 giri dietro la safety car veramente è qualcosa che non si dice, perché bisogna farli partire subito, la pista si stava asciugando, era praticamente asciutta, cioè. Lo stesso direttore di gara che 2 anni fa aveva fatto andare avanti una gara con una gru in una via di fuga che era costata la vita al povero Bianchi, oggi ormai decide di annullare ogni rischio. Insomma, la Formula 1 è bella anche perché ci sono delle partenze convulse, ci sono delle partenze in cui può capitare di tutto, in cui spesso si vedono le vere cose emozionanti di una gara. Oggi abbiamo avuto una partenza anestetizzata da 7 giri dietro una safety car che non riusciva a tenere quel ritmo, perché bravo finché vuoi Mailander, che guidava la safety car, non poteva reggere il ritmo di chi gli stava dietro. Si è rischiata addirittura la comica, cioè di Hamilton che andasse a sbattere contro un'altra Mercedes, questa volta non quella di Rosberg. Per cui ha un po' stufato questa Formula 1, che parte male e finisce peggio, perché la regola è chiara, la regola dice che non si possono dare aiuti o mai via radio. Il messaggio lo hanno sentito tutti in Eurovisione, bisognava stabilire all'inizio quali erano le penalità per chi non rispettava le nuove regole sul silenzio radio, punto e basta. Sì, cosa che ovviamente adesso imbarazza ora. Perché Carlo, alla classifica dice in questo momento Rosberg 171 punti, Hamilton 167. Rosberg però, che potrebbe perdere il secondo posto se gli dessero una penalità di 5 secondi, oppure magari essere superato anche da Ricciardo se andassimo fino ai 20 secondi di penalità, con rivoluzione nella classifica mondiale e tutto scritto a tavolino in questa stagione che sta mettendo veramente in discussione la credibilità di questo sport, o quello che ne rimaneva, Carlo. Ormai ormai ha ragione il direttore, ormai la Formula 1 è inguardabile, è di una noia mortale, si sta uccidendo da sola, e con norme, regolamenti, con safety car, con direttori di gare incapaci. La Formula 1 si sta ammazzando da sola, cioè io credo sia veramente all'epilogo il circo messo in piedi da Bernie Ecclestone. Ormai si va a correre in luoghi improbabili, privi di storia, sono dei mondiali che non hanno nulla da dire. Io mi domando per quale ragione un telespettatore dovrebbe mettersi davanti alla televisione alle 2 del pomeriggio della domenica per vedere uno spettacolo del genere. Cioè veramente è lo sport in maggiore difficoltà, io credo, tra tutti quanti, in maggiore difficoltà di credibilità, in maggiore difficoltà di appeal, e non so per quanto a lungo gli sponsor saranno disposti ancora a versare tonnellate di soldi su questo spettacolo, che ormai spettacolo non è più. Sì, ad oggi c'è la fila ancora per chiedere la Formula 1, quindi forse questo è l'ultimo dei problemi, però insomma anche quello di questo pomeriggio non è stato un grandissimo spettacolo, non è stato evidentemente un bello spettacolo nemmeno la Ferrari, la peggiore credo dell'anno, 5° posto per Raikkonen, 9° per Sebastian Vettel. Io penso che sarebbe più onesto, direttore, dire chiaramente che si deve lavorare per la prossima stagione invece di inseguire, come fatto ancora 2 settimane fa da Marchionne, ipotesi su riapertura di questa stagione. Il campionato non siamo pazzi, non è assolutamente riapribile il campionato, la Ferrari è fuori gioco e non so neanche se ci saranno delle piste in cui la Ferrari potrà tornare in gioco per la vittoria, quello che mi auguro. Io spero di rivederla competitiva su certe piste, le prossime ad esempio dovrebbero essere più favorevoli perché chiedono meno a telaio e aerodinamica, che sono poi i punti debolissimi di questa Ferrari. Però qui è una pista dove l'aerodinamica e il telaio contavano molto, abbiamo visto come il passo avanti della Red Bull è stato decisivo sia in qualifica che poi in gara, e la Ferrari arranca anche con dei problemi di affidabilità che non sono da poco, perché si è rotto per la terza volta un cambio alla macchina di Vettel, che ha perso 5 posizioni in partenza, e poi anche Vettel poi qualche errorino comincia a farlo, perché oggi l'azzardo di provare a sostituire per primi le gomme da bagnato mettendo quelle da asciutto lo ha fatto giustamente per provare, tanto 11°, 13° non cambiava nulla, e poi però ha perso la macchina, è andato in aquaplaning e poi ha sbagliato anche con Massa nel finale, si è preso anche 5 secondi di penalizzazione. È stata messa un po' troppa pressione su questa Ferrari, come sosteniamo in questa trasmissione dall'inizio dell'anno, e adesso si incominciano a vedere più errori del dovuto. Sì, e forse poi verrà aperta anche la discussione prima o poi sulla guida tecnica di questa Ferrari, ammesso che si possa discutere Maurizio Arrivabene, che si possa discutere Marchionne e che si possa discutere un po' tutta la gestione di questa stagione. Vi chiedo un minuto di pazienza, poi chiudiamo il discorso sulla Formula 1. C'è però il traffico, 800 24 00 24, se volete chiamarci, siamo qui fino alle 19 e poi dalle 21 per lo speciale sulla finale dell'Europeo. Se volete prenotarvi potete già chiamare 800 24 00 24 oppure via sms 349 238 6666 anche per i vostri WhatsApp. Il traffico, che ci sono le code, torniamo vai subito. Bene, sei un fenomeno, vai male, sei un idiota. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. Vettel sconsolato ha detto: oggi non siamo stati competitivi nemmeno con la Red Bull, che è un altro tema da mettere sul tavolo di questa delusione che è la Ferrari. Ferrari che io credo, e lo dicevamo prima, debba prendere atto di quello che è il fallimento di questa stagione, pensare già alla prossima, anche se mi pare di capire non sia questo ancora il tema a Maranello e dintorni. Siamo con Carlo Genta, Umberto Zappelloni, Giulio da Modena. Giulio. Sì, io sono testimone, diciamo, di casa della pochezza della Ferrari di queste stagioni. Ecco, solo due ragionamenti. Il primo che riguarda la Formula 1 in generale: quando la Formula 1 era noiosa perché Ferrari o anche qualcun altro dominava, è perché c'era un pilota o due che si staccavano dagli altri con delle auto competitive. Quindi io parlo di chiaramente Schumacher, sì. Ma non solo, ma anche in altri momenti. Lo stesso Vettel alla Red Bull era un talento che vinceva perché gran auto, ma lui era anche veramente bravo. Oggi si vede invece che con un'auto scadente questo è il risultato. E qui mi riconduco al discorso Ferrari, perché dico, cosa c'è di professionistico e di valore in una scuderia che a inizio stagione proclama di essere da mondiale? Nel momento in cui la Ferrari è ripartita, prendendo i più bravi, quando prese Schumacher e poi successivamente Alonso, che solo sfiorò un mondiale, però il profilo era sempre stato più basso. Qui si è partiti a voler sì, convincere quello è l'errore Giulio, e lo stiamo dicendo con Umberto Zappelloni da almeno un paio di mesi, cioè l'errore originale di tutto è stato aver scaricato sulla Ferrari direttore tutta la pressione del mondo in una stagione in cui evidentemente la Ferrari non era ancora pronta a vincere. Scorso è vero, la Ferrari ha fatto un passo avanti, è riuscita a vincere tre gare, a essere competitiva, è riuscita a superare nettamente la Red Bull. Però il distacco con la Mercedes è sì diminuito, ma non da far presupporre al sorpasso in questa stagione. Poi qualcuno ha suggerito evidentemente a Marchionne che erano stati fatti dei miglioramenti così importanti sul motore, e questi li abbiamo visti, ma anche sulla macchina, che ha portato il presidente un po' esageratamente a proclamare una di vittoria nel campionato del mondo, di vittoria fin dalla prima gara, di Ferrari competitiva dall'inizio alla fine in lotta per il titolo, cosa che non abbiamo poi visto, quindi si è sicuramente esagerata. Ma capitava già negli anni di Schumacher, quando il vantaggio era netto, non si partiva mai sbandierando così la potenza della Ferrari, quindi è stato forse Marchionne bravissimo a rimettere a posto i conti della Fiat, magari un po' meno che mettere a posto i modelli della Fiat, però forse è esagerato un attimo e si è lasciato prendere la mano da quello che qualcuno dall'interno di Maranello gli ha raccontato. Perché è stato lui, direi soprattutto lui, a mettere pressione sulla Ferrari e a non perdere l'occasione di ribadirlo. Sì, è stato lui a dire che questa era la stagione in cui della si aspettava. Giulia ha ribadito le stesse cose. Si aspettava di tornare a vincere, ma non una o due gare o tre come l'anno scorso. Si aspettava di tornare a vincere il mondiale. Grazie direttore. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie Umberto Zappelloni. Poi Carlo, c'è chi dice che la Ferrari dovrebbe andare a fare un altro campionato, magari meno restrittivo, dove il pilota torna ad essere protagonista, e magari questa potrebbe anche essere la soluzione per restituire un po' di divertimento alla Formula 1, chissà. Parliamo di basket, per chi è riuscito, io no, a digerire quello che è successo ieri sera a Torino. La la la. Tantissimo tempo e poi la riscodella nelle mani di Hackett, poi va a prendersela nell'angolo, sbaglia, game 7 match, la Croazia va a Rio. Tristeza, por favor, vai embora. È difficile trovare delle parole, però sì, è l'obiettivo mancato. Vanno a Rio meritatamente loro, non cerchiamo scuse, ma dobbiamo guardare come sempre, penso, quando non raggiungiamo quello che volevamo, ognuno deve guardare dentro di sé, imparare, capire cosa poteva fare meglio, cosa sbagliare. Non abbiamo grossi rimpianti, perché l'impegno ovviamente c'è stato, ma quello è la base. Non è che quando si perde bisogna per forza trovare dei colpevoli. La squadra ci ha messo un sacco di impegno, abbiamo sbagliato, abbiamo perso. La Croazia è una volta. Perché restiamo a casa per questa tristezza dalle Olimpiadi per la terza volta consecutiva. Non ci andiamo da Atene nel 2004. Di chi è la colpa? Carlo Gente, saluto anche Davide Pessina. Ciao Davide. Ciao, buonasera. Ciao Davide. Carlo. La colpa è... Aspetta, ti giro un messaggio. Che dice il gufetto Genta della performance dell'Ital Basket più forte di sempre? Beh, io continuo a pensare che sia una delle nazionali con maggiore talento nella storia, e questo è paradossale, perché è una generazione che rischia di rimanere all'asciutto di Olimpiadi, all'asciutto di grandi trofei internazionali. Al prossimo giro, se dovessimo andare, questa generazione sarà ultra trentenne, Gallinari avrà 32 anni, il che è incredibile, perché abbiamo messo insieme una nazionale con grande talento, abbiamo preso l'allenatore più bravo che c'è, il più bravo in assoluto, eppure non siamo riusciti a costruire in casa un sogno che insomma, diciamoci la verità, tutti quanti ci aspettavamo di raggiungere, perché perché questo è, non esiste un colpevole. Perché tutto era costruito perché così fosse, tutto. A partire dall'investimento fatto per giocare in casa questo maledetto girone. Davide, sì, cosa si doveva fare di più? Era stato fatto tutto per poter andare a Rio, purtroppo è mancato l'ultimo sforzo. È vero che è un torneo particolare, molto breve, con poca preparazione prima, però voglio dire, lo stesso discorso vale per gli altri. Un'Italia sinceramente che mi aspettavo più aggressiva dall'inizio nella partita decisiva, sfruttare in qualche modo il fatto di giocare in casa e soprattutto che nel proseguo, insomma, nell'andare avanti della manifestazione trovasse un po' più di equilibrio, di ritmo offensivo, perché il problema è stato quello. La difesa c'è stata, ha lavorato molto bene, quello che ha permesso all'Italia di rimanere in partita, di vincere facilmente le altre, però la qualità offensiva non è mai arrivata. Questo è stato il grosso problema. Mi dai un voto a Messina? Oh, difficile dare un voto così. È chiaro che non avendo raggiunto l'obiettivo non può essere un voto alto, ma può essere un 5,5, ma che vale per tutti. Non so come dire, alla squadra, alla spedizione, perché comunque l'obiettivo era la portata, l'obiettivo era lì. Purtroppo non ce l'hanno fatta. Sono d'accordo con Carlo, questo può rischiare una generazione intera di non andare alle Olimpiadi. Non è la prima volta che succede, ci sono stati altri periodi nella storia del basket italiano, però per un giocatore di basket l'Olimpiade è il massimo possibile, il punto più alto a cui arrivare con la nazionale, per cui sicuramente il rimpianto per i giocatori può essere tanto. Oggi c'è qualcuno che ritorna anche sulla decisione della federazione di far fuori Pianigiani dopo l'europeo ed imbarcare Messina. Io non so se si possa iscrivere tra le cose che forse potevano essere fatte diversamente. Non so chi vuole rispondere, Carlo, poi Davide. No, secondo me prendere Ettore Messina non può essere mai un errore. È chiaro che, come dice Davide, ci aspettavamo una nazionale molto più aggressiva in attacco, molto più precisa in attacco. Abbiamo fatto una fatica tremenda a trovare canestro, ma contro chiunque, non solo ieri contro la Croazia. Ma abbiamo avuto partite dai punteggi simili mini basket, insomma. È chiaro che la difesa con la voglia, l'aggressività e anche il poco tempo forse riesci a costruirla con giocatori che hanno voglia. Per l'attacco ci vuole un po' più di lavoro, un po' più di pazienza, però è impossibile non trovare il modo di sfruttare il talento che avevamo a disposizione. Sono convinto fossimo andati a Rio con un mese in più di lavoro, di preparazione, di allenamento, avremmo visto anche un'altra Italia, e forse questo è il rimpianto maggiore. Perché non esiste che una squadra con così tante capacità individuali riesca a spremere 60-70 punti a partita. Non esiste, però era un po' il discorso che si faceva anche un anno fa per l'europeo, Davide. Era un po' opposto, perché a un certo punto l'europeo dell'anno scorso si sono sbloccati in attacco dalla partita con la Spagna e hanno avuto qualche problema più in difesa. Invece quest'anno è andato un po' appunto all'opposto. Io credo che sia anche da sottolineare una cosa: siamo arrivati con i giocatori di riferimento o stanchi o fermi da tanto, nel senso che Gallinari ha avuto un infortunio, è stato fermo tanto, Bargnani ha smesso di giocare praticamente a febbraio perché comunque con Brooklyn è andata male, insomma, è stato rilasciato, lui non ha più giocato da nessuna parte, si è allenato, e allenarsi è una cosa e giocare è un'altra. Da Tome, che è un altro giocatore estremamente importante per questa squadra, è arrivato molto stanco. La stagione in Turchia con Fenerbahce è stata veramente lunga. Per cui c'è anche questo aspetto. Mi sono sembrati, vedendoli nel corso del torneo, tutti un po' senza gambe. I giocatori, ripeto, più importanti. Gallinari, che spesso arrivava al ferro e non riusciva a chiudere con potenza, ma cercava il doppio tiro in doppio controtempo proprio per riuscire a ovviare a questo. Poi ha giocato una buonissima finale, chiamiamola, Gallinari. Però è questo anche, un po' di desuetudine a giocare, oppure di stanchezza, e questa alla fine la paghi. Perché sì, comunque è vero anche che... se la stagione è stata lunghissima anche per i croati, perché poi è giusto non cercare alibi e spiegazioni. No, questo è vero, però permettimi, sì. per Datome è stata lunghissima, per Gallinari, per Bellinelli, che ha finito presto con Sacramento, per Bargnani ancora prima, invece è stata molto corta, quindi tanto tempo fermi. E questo in qualche modo ci fa perdere ritmo. Poi ovviamente non si cercano scuse, cioè un dato di fatto. È chiaro che, ripeto, che alla fine questa squadra ha tutto per battere la Croazia, per battere tutte le squadre che tendono ad andare a Rio. E poi attenzione, andare a Rio voleva dire fare un torneo con 12 squadre con buone possibilità di fare bene, perché hai molta meno pressione, perché azzecchi due partite, sei in semifinale più o meno. E quindi il rimpianto aumenta ancora maggiore. Davide, ti faccio sentire un frammento di Ettore Messina ieri sera, poi voglio da te una risposta flash e sincera al massimo. Messina: sono onorato della fiducia che il presidente ha avuto in me fin dal primo giorno. Lo ringrazio soprattutto della fiducia, del fatto di dire non è che tutto inizia o finisce con questa purtroppo tristissima sconfitta. Questo Messina, si riparte da lui o converrebbe cambiare? Credo che dipenda da lui, di base. Cioè, la sensazione era che fosse un'unione delle forze proprio per la straordinarietà dell'evento. Ossia, Messina non ha mai fatto un'Olimpiade con la Nazionale. La Nazionale aveva bisogno anche di un uomo, come dire, rappresentativo, uno dei migliori allenatori della storia del basket italiano, per cui sono uniti, come dire, ci uniamo per questa cosa. Poi vediamo come va. Se andiamo a Rio, bene. Se non andiamo, eventualmente ne riparliamo. Per cui io credo che bisognerà vedere la disponibilità di Messina in primis e da lì poi vedere. Non sono così sicuro che Messina voglia o possa continuare, diciamo, dagli europei dell'anno prossimo. O anche che convenga all'Italia non avere un CT a tempo pieno, perché c'è anche da anche ragionare questo. Su questo. Davide, grazie. Però, sì. Scusatemi un secondo, però a questo punto se tu scegli un CT a tempo pieno, al momento non è che ce ne siano proprio tantissimi in giro. E si torna forse a quello che è stato il peccato originale, o forse no. Grazie Davide. Grazie a voi. Grazie Davide Pessina. Carlo, ci fermiamo un minuto e poi ci buttiamo nell'atmosfera dell'europeo. L'ho detto l'anno scorso, insomma, non è bello far parte di quella generazione che non ha fatto niente di che con la nazionale, quindi l'obiettivo è sempre quello. E, niente, ce l'abbiamo in testa, chissà che il prossimo anno saranno buoni. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Franco Schipani, Alessandra Fiori, buongiorno. Tintarella di luna, tintarella color latte. Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9.30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Tutti convocati. Si propone, Pogba è costretto a scegliere la rigore, poi magia di Pogba in mezzo per Giroud, anticipato, Griezmann, il doppio della Francia. Game over! La Francia in finale a Saint-Denis, batte la Germania per 2-0 con la doppietta di Griezmann. Nell'area di rigore, lo stacco di Ronaldo che infila la porta e porta il Portogallo in vantaggio. Minuto 50, eccolo il fenomeno ancora di testa a sbloccare all'improvviso la semifinale. Eccolo il fenomeno ancora di testa. In area c'è Nani, palla per lui, deviata, prova a staccare, Sanchez anticipato, la prende al limite, Ronaldo non calcia, poi sì, con il destro, deviata da Nani. Erickson ha il fischietto in bocca e manda a Parigi il Portogallo. È in finale Cristiano Ronaldo prima, Nani poi, dopo 12 anni il Portogallo torna in finale, affronterà la vincente di Francia-Germania. oggi alle 21, Parigi Saint-Denis, e qui su Radio 24 dalle 21 con lo specialone per la finale dell'Europeo Francia-Portogallo. Dalle 21 vi aspettiamo, Carlo. Andiamo avanti finché c'è partita e finché c'è Europeo. A Parigi avremo Tancredi Palmeri. Ciao Tancredi. Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno. Vi dico subito che è il giorno più caldo dell'anno a Parigi, e non mi riferisco a una temperatura virtuale, proprio quella vera e propria del mercurio. Quanti gradi siamo? Ma guarda, all'ombra ce n'erano 30, quindi fai te, è considerato che dovunque c'è gente per strada, cioè in casa non credo che sia rimasto nessuno a Parigi oggi. E in più ci aggiungerei che nell'area, nella regione fuori Parigi, abitano circa, con origine portoghese o di origine portoghese, quindi di origine portoghese, circa 700.000 persone, che da quello che ho visto si sono tutte riversate su Parigi oggi. Sì, quindi è un derby interno, Carlo, sì. questa giornata che la Francia prepara dal giorno in cui si è fatta segnare l'Europeo, pensando di poter rivivere i fasti di Platini del 1984, di Zidane nel 1998, sempre a Parigi. Ci sarà anche Pierluigi Pardo, ciao Pierre. Sì, io non sarò a Parigi, ma no. ci sarò. Saluto anche Tancredi, oltre agli ascoltatori, Carlo, beh, insomma, appunto, è la partita che i francesi sognavano, anche per confermare questa loro regolarità nelle competizioni in casa, che mi sembra, insomma, un dato abbastanza clamoroso e abbastanza oggettivo, anche perché ultimamente il fattore campo invece è saltato tante volte, è saltato clamorosamente col Brasile, no? Invece la Francia è in finale, secondo me meritatamente, e l'avevo prevista assieme a Germania e Spagna tra le favorite. Il Portogallo è un outsider, stasera vedremo. Sì, anche se io non so, Carlo, come la pensi tu, partiamo da te. Mi sembra ci sia un po' troppa fiducia attorno alla Francia. Oggi abbiamo visto addirittura le foto postate sui social del pullman per la vittoria già pronto. Queste sono cose, per noi italiani, sono cose che portano una sfiga terrificante. No, magari i francesi non ci credono come noi siamo i maestri della superstizione, e queste cose sarebbe meglio evitarle. La Francia, detto questo, fa bene ad avere fiducia, perché comunque è una squadra di grandissimo talento, gioca in casa. Il Portogallo, detto francamente, non mi sembra un avversario irresistibile, perché a me non ha mai impressionato in questo Europeo. A dire la verità, non mi ha fatto impazzire nemmeno la Francia dal punto di vista del collettivo, dal punto di vista del gioco di squadra. Sì, non fino alla semifinale, no. Perché poi il quarto di finale e l'ottavo troppo semplici, ha giocato in tutto l'Europeo soltanto la partita con la Germania contro una grande. Poi possiamo tornare a toccarci le ferite dicendo che l'Italia ha incontrato tre grandi squadre invece ed è a casa da una settimana. Però io non mi dimentico quanto si disse qualche tempo fa Gianni De Biasi, dopo aver affrontato la Francia nel girone, fu nostro ospite, sì. e disse: la Francia è una squadra che mette sempre il lino davanti a noi, e tutte le volte che si giocare la Francia, a me questa definizione torna in mente. Squadra di immenso talento, ma che non riesce ad impressionarmi. Sì, ma infatti è cambiata, ragazzi. Sì, è cambiata, però questa, ad esempio, è la finale che da tanti viene disegnata come la finale della consacrazione di Pogba. In Francia in realtà puntano tutti su Griezmann. Vi leggo un messaggio che è arrivato: 3492386666. Se vincerà la finale, il più grande di tutti sarà Deschamps, che noi tra l'altro abbiamo frettolosamente scaricato dalla Juve. No, ma si è un po' anche autoscaricato, sinceramente. Sì. Detto questo, io non sono d'accordissimo con Carlo, nel senso che la Francia delle prime partite era sicuramente quella squadra lì, il virgolettato di De Biasi non ricordo benissimo, ed era giusto. Francia-Albania sarà una partita abbastanza noiosa, con la Francia che soltanto alla fine aveva trovato la vittoria. Francia-Svizzera è stata bruttissima, hanno rischiato anche di perdere, però... adesso direi che nelle ultime due partite, direi dal secondo tempo del match contro l'Irlanda, vediamo una squadra completamente diversa. Si dirà che l'Islanda è alla fine una squadra sprovveduta, benissimo, però è la stessa che ha vinto il suo girone e poi ha eliminato l'Inghilterra, che la Germania aveva delle assenze, benissimo, ma è la stessa che comunque ci ha mandato a casa. Quindi io penso che invece la Francia nelle ultime uscite sia cresciuta moltissimo e credo che sia la grande favorita di stasera, e secondo me è un po' ingeneroso dire che è una squadra che mette il lio davanti a noi. È una squadra che all'inizio dell'Europeo sicuramente aveva dei patemi, forse dovuti anche all'ansia da prestazione, che chiaramente ne sa qualcosa la nostra nazionale di basket. Ai noi, quando giochi in casa può diventare un fattore. Hai tutta la pressione sulle spalle. Tancredi, noi la viviamo come la finale di Pogba. Ho l'impressione che per i francesi l'uomo sia Griezmann. Neanche di mezza l'hanno nominato, ecco. Pogba, devo dirti. Cioè, io quando ho visto... No, oggi sull'Equipe, per intenderci, non c'è una pagina dedicata a Pogba. Cioè, sono dedicate a un TT... esatto, a Griezmann. Il Gasson e Griezmann. Perché mentre nel 98 c'era il bisogno di quella narrativa di una Francia multiculturale, perché era la prima volta, perché in fondo nell'84 sì, c'era qualcuno che veniva dai territori, però non era come nel 98 con la Stella che è un franco-algerino, insomma ognuno da tra Desailly, Turam, c'era di tutto veramente. Adesso quello è un fatto assodato. Se vogliamo, le ferite che devono essere rimarginate culturalmente, socialmente, sono altre in questo momento. E Griezmann è l'enfant du pays. Non esiste, cioè, Pogba doveva essere la stella, ma se le guadagnate sul campo i galloni Griezmann. Inoltre, si sposa benissimo con la cosa che diceva Pierre, cioè che è una squadra che è cresciuta partita dopo partita. Non dimentichiamoci che Griezmann e Pogba la seconda partita venivano messi in panchina da Deschamps, e Griezmann sta finendo con la stessa quota di gol classica, se non segna più almeno, dei cannonieri mondiali, i sei di Schillaci, di Necker, i sei di gol. Paolo Rossi. Anzi, dovesse farne uno questa sera, sarebbe secondo dietro alle spalle soltanto dei 9 gol di Platini, che rappresentano il primato che assoluto. Però aveva fatto 2 partite in meno, c'è anche da dire. Sì, assolutamente. Però non l'hanno toccato di mezza Pogba, guarda, ieri addirittura il numero dell'equipe era tutto il confronto a distanza Cristiano Griezmann. Oggi ovviamente è esteso al concetto di Francia-Portogallo, ma Pogba è uno degli altri 10. E come dicevate voi anche poco fa, la figura di Deschamps, perché ricordiamoci che è l'uomo che ha sollevato sia la Coppa del Mondo, sia la Coppa dell'Europeo. È il vero trade union con le glorie passate, perché non c'è nemmeno Benzema in campo che dice bene, ok, parte dell'Alta Francia, forse al massimo Evra, però Evra ha un ruolo marginale. Per cui quello che è Cristiano per il Portogallo, per la Francia è Deschamps, è lui l'uomo che tiene sulle spalle una nazione. Deschamps che potrebbe diventare il secondo uomo a vincere l'Europeo sia da calciatore che da allenatore dopo Bertie Fox, il tedesco. Vi chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi torniamo, voglio il vostro pronostico, poi ci risentiamo tutti dalle 21 per il nostro speciale dedicato, anzi se volete già prenotarvi 800 24 00 24, perché vi invitiamo a viverla con noi la finale di questa sera dell'Europeo tra Francia e Portogallo. Scrive un amico: 2-0 per la Francia, Griezmann e Pogba, perché il Portogallo non merita la finale. Ma come non merita la finale? Ma ne parliamo dopo il traffico. E come ho detto, ma non è la finalità è domenica. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Tutti convocati. Giro di pronostici su Francia-Portogallo, aspettando le 21, lo ricordo per l'ultima volta, speciale su Radio 24 dalle 21 per seguire Francia-Portogallo, Tancredi Palmeri. Vai, eccoci, vai, scusate, Tancredi, dammi il tuo pronostico, allora, su Francia-Portogallo. Io dico 1-0 per la Francia, non so se nei tempi regolamentari o supplementari, e il gol o Griezmann o Payet o Griezmann. Griezmann, Pierre. Sì, anch'io 2-1, 1-0, 2-1, una cosa così. Carlo? Carlo? Carlo, l'abbiamo perso? No, ci sono. Con il mio dismaltimento, sentito il traffico, posso documentare tutto metro per metro. Comunque vince la Francia 2-0, vince la Francia 2-0 e segna anche Pogba. E invece vi dico 2-1 per il Portogallo, anche se un amico scrive al 349-238-6666 il Portogallo solo fortuna non meritava la finale, invece c'è chi dice se la cantano e se la suonano da soli i francesi, quindi questa sera forza Portogallo dalle 21. Portugal. Allora io saluto saluto e poi ci risentiamo dalle 21 Tancredi Palmeri e Peluigi Pardo. Ciao a tutti e due. Ciao, dopo, ok, mi abbandono ai consoli di polizia qua che sono dappertutto. Immagino. Ci sentiamo dalle 21, sì, meglio così. Ciao Pier, anche te alle 21. Noi invece andiamo sulle strade del tour. Tappa durissima. Tremenda. Facevo male la grandine, una cosa incredibile. Però dai, Fabio ha perso qualcosa, ma domani c'è un giorno per poter recuperare, quindi vediamo. Questo è Nibali che ha scortato Aru, che ha perso un minuto da Froome in una tappa con salite, pioggia, grandine, con Tom Dumoulin che ha vinto, ha stravinto, ma tanto era fuori classifica, con Froome che ha dato spettacolo. Pier Augusto Staggi, ciao Pier. Ciao, buon pomeriggio. Tappa d'altri tempi, tappa che dice che forse non siamo ancora pronti per essere competitivi in questo tour, se parliamo di noi italiani, dice anche che Froome è scatenato. Ma dice in realtà che a Froome basta un colpo di genio, un colpo di teatro in discesa. Ieri veramente ha stupito tutti, ha lasciato con la borraccia in bocca Quintana, che è una grave colpa, che è quella di non osare mai. Anche oggi in una tappa difficile, dura, dove poteva benissimo anche provare nell'ultimo chilometro e mezzo, nell'ultimo 2 chilometri, a mettere un po' di pressione, un po' di paura a Froome, in realtà lui è rimasto lì, l'ha scortato come se fosse il primo dei suoi gregari, e quello è quello che in realtà manca a questo tour, manca in questo momento il coraggio. Ci hanno provato timidamente, forse più per onor di firma, per in favore di telecamera, come si suol dire, Daniel Martin, che in ogni caso negli anni precedenti, negli ultimi 2 anni è stato molto sfortunato, è stato costretto al ritiro, è stato molto bravo ad Amenizia, è stato altrettanto bravo Ricci Porte, che ci ha provato, però gli altri sono stati un po' tutti fermi, tutti molto passivi, soprattutto il primo indiziato dei uomini più deludenti di questa tour è assolutamente il colombiano Nairo Quintana, che rischia di passare alla storia per essere l'eterno piazzato, perché probabilmente arriverà per l'ennesima volta, sarebbe la terza, secondo il Tour de France, quindi potrebbe vincere idealmente il premio Raymond Poulidor, e poi per essere il meno spettacolare della storia, sì. Un colombiano così passivo, così non si è mai visto. Anche se poi il dato è che alla fine della prima settimana, Pier, lo giro anche a Carlo, insomma, questa considerazione, alla fine della prima settimana i grandi sono tutti lì, eppure ci sono state le salite, c'è stata battaglia, c'è stato qualcuno che si è perso. Contador oggi ad esempio si è ritirato, Carlo. Sì, qualcuno sia, beh, Contador io non l'ho mai considerato tra i favoriti del Giro, io credo che sia sul Sunset Boulevard della carriera, però ha ragione Pier, cioè, Froome è il grande favorito, gli basta uno schiocco di dita, gli bastano pochi chilometri comunque per prendersi il giallo e per prendersi quello che gli serve in classifica generale. Per quanto riguarda gli altri, insomma, Froome è forte, ma bisognerebbe dargli battaglia. Io non ho mai creduto, a differenza di Pier Augusto, in una possibilità di vittoria di Nairo Quintana, perché mi sembra un corridore incompleto per poter vincere il Tour de France. Gli manca qualcosa. Abbiamo meno di un minuto, Pier. Dobbiamo considerare come il minuto incassato da Fabio Aru. Ma fisiologico, perché adesso non voglio fare il linguaribile italiano ottimista, però è giusto essere un po' ottimisti nei confronti del corridore sardo alla sua prima partecipazione al Tour. È vero, per oggi è la sua vera prima battuta d'arresto, ma che l'ha medicata. L'ha medicata con un Nibali che è rimasto sempre lì nel vivo della corsa, quindi un'altra indicazione positiva. Passano i giorni e Nibali migliora. Oggi era lì, non dico che poteva vincere, se non ci fosse stato Aru poteva andare meglio, però era lì ed è rimasto lì costantemente a fare l'andatura con Fabio Aru. Fabio oggi ha patito una giornata brutta, di grande difficoltà, deve anche saper reagire a queste giornate, al Tour ce ne sono tantissimo, qui c'è il meglio del ciclismo mondiale, però non è ancora detto l'ultima parola. Però è ancora lì vicino. È un corridore di resistenza e sono convinto che sulle Alpi Fabio potrà giocarsi, non dico la top 10, ma anche qualcosa. È pur sempre sotto il minuto e mezzo di distacco da Froome. Pier Augusto, ti saluto, ciao, grazie. A domani per Augusto Staggi. E noi ci fermiamo qui, Carlo, dalle 21 lo speciale per Francia-Portogallo. Io ringrazio Giovanni Melchiori, redazione, Andrea Roccabella in regia. Gianmarco Tamberi ha vinto l'oro nel salto in alto europei di Amsterdam, primo azzurro a vincere una medaglia in una grande manifestazione all'aperto nel salto in alto. C'è anche questo nella nostra domenica alle 21. See you at Vicarage Road. Thank you very much.